Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Arrivo le dimissioni di Marrazzo, che in queste ore si trova in un istituto religioso. Blitz antievasione della Guardia di Finanza, nel mirino gli istituti finanziari in Italia, in qualche modo legati alla Svizzera. L'Iran accetta la bozza IEA sul nucleare, ma chiede modifiche. Oltre 6 milioni di spettatori per la prima puntata del Grande Fratello, fra parolacce e trans. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Caso Marrazzo in primo piano, sembrano farsi più vicine le dimissioni del governatore del Lazio. Sentiamo. Trascorrerà la convalescenza in un istituto religioso alle porte di Roma. Piero Marrazzo, il governatore del Lazio, stamattina ha lasciato la sua abitazione dove si era rinchiuso dopo lo scandalo del video che lo ritrae assieme ad un transessuale ed il ricatto da parte dei quattro carabinieri arrestati la scorsa settimana. Ieri Marrazzo era stato visitato al Policlinico Gemelli dove gli è stato diagnosticato un forte stress psicofisico. Gli è stato prescritto un periodo di 30 giorni di convalescenza, al termine del quale dovrebbe rassegnare le dimissioni. Dimissioni che però, secondo voci, potrebbero arrivare molto prima, forse già oggi, come chiede a gran voce anche il centrodestra, secondo cui la sua autosospensione per motivi di salute non sarebbe legittima. Stamattina intanto la Procura di Roma ha ribadito che Marrazzo non è indagato e per lui non sono in vista nuovi interrogatori. Gli inquirenti hanno poi smentito le indiscrezioni, secondo cui anche altri politici sarebbero stati ricattati dai carabinieri arrestati. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E le dimissioni di Marrazzo sono state l'argomento del nostro sondaggio di oggi. Dimettersi oppure no? Per i nostri ascoltatori Piero Marrazzo non ha che una strada, quella di lasciare. Hanno risposto così il 75% di voi nel sondaggio di oggi. Quella che ha coinvolto il governatore del Lazio non è dunque una vicenda privata, anche se Vladimir Luxuria va in soccorso del politico coinvolto. Non mi è mai piaciuto e ho trovato anche abbastanza degradante, questo sì, il fatto che si sia dato così tanto risalto andando a spulciare la vita privata delle persone. Non mi è piaciuta né ai tempi di Bill Clinton e non mi piace una politica in cui si cerca in tutti i modi di distruggere l'avversario politico andando a scavare sul piano della privacy, soprattutto per quello che riguarda le abitudini sessuali. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24 torna domattina alle 8.30. Per votare, radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. È attesa nel primo pomeriggio la decisione della Corte d'Appello di Milano nel processo a carico dell'avvocato inglese David Mills, condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi per corruzione in atti giudiziari. Ci colleghiamo in diretta con Raffaella Calandra. Sì, buongiorno. Dunque siamo alle porte del secondo verdetto per il processo a carico di David Mills. I giudici della seconda Corte d'Appello di Milano sono in Camera di Consiglio da qualche ora e nel primo pomeriggio faranno sapere se accoglieranno le richieste della Procura Generale di confermare la condanna a 4 anni e 6 mesi per corruzione in atti giudiziari a carico di David Mills, se piuttosto invece assolvere l'avvocato inglese così come chiede la difesa, o piuttosto considerare prescritto ormai il reato, così come anche aveva formulato uno dei difensori di Mills, considerando che a loro dire non si trattava di corruzione in atti giudiziari ma al massimo di corruzione semplice e dunque già prescritta. I giudici potrebbero però allo stesso tempo anche decidere di acquisire nuovi atti e nuovi testimoni, compreso lo stesso Silvio Berlusconi, così come era stato richiesto in una memoria dai difensori di David Mills. Dunque tra poco sapremo quale sarà il secondo verdetto a carico dell'avvocato inglese, mentre, lo ricordiamo, deve ancora essere per così dire scongelato il procedimento a carico dello stesso Silvio Berlusconi, che era stato fermato in virtù del lodo Alfano, poi dichiarato incostituzionale dalla Consulta. Il 16 novembre invece ricomincerà sempre a Milano il procedimento a carico di Berlusconi nel fascicolo sulle presunte irregolarità nella compravendita dei diritti TV Mediaset. E per ora è tutto. Grazie Raffaella Calandra. Primi nodi da sciogliere per il PD di Bersani, le alleanze e il caso Rutelli. L'ex sindaco di Roma infatti ha annunciato: vado con Casini, ma non subito e non da solo. Il neo segretario ha già sentito telefonicamente il leader IDV, Di Pietro, e il leader centrista Casini. Casini e al più presto li rivedrà. Le primarie, come sapete, hanno incoronato leader del PD Bersani, ma da quella votazione sono emerse anche altre indicazioni che riguardano le regioni. I dati non sono ancora ufficiali, ma è già delineata la nuova mappa del Partito Democratico, così come è stata consegnata dai votanti alle primarie. 13 segreterie regionali al leader Pierluigi Bersani, una soltanto a Dario Franceschini, che con Deborah Serracchiani ha trionfato in Friuli. I giochi sono ancora aperti, però, almeno in 6 regioni, non avendo nessuno dei candidati superato il 50% dei consensi. In Lazio, Veneto, Trentino, Basilicata, Umbria e Sicilia. Tra gli insuccessi spicca la sconfitta di Sergio Cofferati. L'ex sindaco di Bologna e segretario della CGIL correva in Liguria per Franceschini, ma è stato sconfitto dal bersaniano Lorenzo Basso. Sconfitto anche il sindaco di Bari, Michele Emiliano, che si è fermato al 30%. Per il resto, dall'Emilia alla Lombardia, dal Piemonte alla Sardegna, Bersani ha trionfato, con picchi al sud. In Calabria, Carlo Guccione ha raggiunto il 75% dei consensi, in Campania, Enzo Amendola, il 70% dei voti. Katia Caramelli, GR24, il Sole 24 Ore. Finiscono sotto la lente dell'Agenzia delle Entrate 76 fra filiali italiane di banche svizzere e banche italiane in qualche modo ricollegabili ad intermediari elvetici. Dalla Svizzera, Lino Terlizzi, buongiorno. Buongiorno. Allora, cos'è successo? Qual è la reazione anche della Svizzera, se è già arrivata? Ci sono 76 filiali di banche svizzere o di uffici bancari collegati a intermediari svizzeri o altri situati nei pressi di San Marino che sono stati controllati questa mattina da centinaia di agenti del fisco italiano. Non ci sono per ora reazioni ufficiali da parte o dell'Associazione delle Banche Svizzere o di altre associazioni. La prima reazione a caldo, le prime reazioni a caldo raccolte dagli operatori in modo ufficioso qui in Canton Ticino in particolare, sono un po' di stupore, perché c'è un intreccio casuale, chiaramente, perché questo tipo di operazioni sono programmate da tempo, non si improvvisano, ma casualmente proprio oggi il ministro delle finanze e presidente della confederazione Hans Rudolf Merz, in un'intervista al Sole 24 Ore, ha lanciato segnali di dialogo all'Italia proprio sul campo fiscale, pur mettendo paletti da parte svizzera, e quindi il sovrapporsi di questi due avvenimenti ha suscitato un po' di stupore. Per ora, ripeto, però, nessuna reazione ufficiale. Vedremo nelle prossime ore se da parte della Svizzera uscirà qualcosa. Grazie, ci risentiremo dunque, Lino Terlizzi. Ora invece ci trasferiamo all'aeroporto di Fiumicino, dunque a Roma. Questa mattina infatti la presentazione del nuovo terminal Alitalia. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Oggi 27 ottobre è una giornata importante nella storia di Alitalia. Oggi possiamo dire che il rilancio della compagnia è un fatto compiuto, secondo tappe previste che da gennaio scorso non hanno subito ritardi. C'è davvero molta soddisfazione nelle parole del presidente di Alitalia, Roberto Colaninno, che con orgoglio dice che credevano in pochi che Alitalia ce la facesse, ma ce l'ha fatta. È considerato dunque un giorno di festa oggi dai vertici di Alitalia, che hanno presentato poco fa il nuovo Terminal 1, un terminal unico e dedicato interamente alla compagnia, con una segnaletica di forte impatto e visibilità. C'è anche il brand innovativo della linea Roma-Milano, che è il fiore all'occhiello della compagnia, e poi nuovi servizi, gate di imbarco personalizzati, flotta di Airbus A320 di ultima generazione. Ma oggi, come dicevamo, è soprattutto l'occasione per tracciare un bilancio anche per l'amministratore delegato Sabelli. È fortemente positivo. Avevo un piccolo sogno, ha detto, quello di realizzare l'obiettivo del pareggio nel terzo trimestre, e potrebbe essere un sogno realizzato. I conti li presenteremo tra pochi giorni e ciò ci consentirebbe di guardare serenamente anche al quarto trimestre, che è considerato di norma difficile per le compagnie. Da Fiumicino per ora è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Ed è arrivata l'influenza A, lo vediamo soprattutto nelle scuole mezze vuote. I più colpiti, come abbondantemente previsto, sono infatti i più giovani. Giuseppe Mele, presidente della Federazione Italiana dei Medici Pediatri, al microfono di Adriana Fracchia. Devo dire che rispetto anche alla normale influenza è più leggera, e questo ci tranquillizza, perché i bambini rispondono perfettamente alla comune terapia, che è quella appunto di somministrare degli anti piretici, il riposo a letto e una dieta appropriata, e risponde molto bene perché è più blanda del previsto, e questo ci tranquillizza. La differenza tra una normale influenza, quella stagionale, e l'H1N1 sta proprio in questo, che la pandemia è una, diciamo, influenza che colpisce in qualsiasi periodo dell'anno, senza una stagionalità, quindi non legata a fattori temporali. in Francia per parlare di Scientology. Now is the time. It is being a Scientologist, people are turning to you. Ha 12 milioni di membri in tutto il mondo e conta tra le sue fila personaggi illustri come Tom Cruise, che abbiamo appena sentito. Ma la chiesa dei Scientology comincia a mostrare qualche crepa nella struttura. Dopo la crisi di John Travolta, adesso è la volta di Paul Haggis, il regista di Crash, annuncia di abbandonare dopo 35 anni perché solidarizza con la moglie, la quale non intende, come imposto da Scientology, smettere di frequentare i genitori, rei di aver violato alcuni dogmi della cosiddetta chiesa. In Europa va ancora peggio. Il Tribunale di Parigi ha infatti oggi condannato 4 esponenti di Scientology a pene da 10 mesi a 4 anni di carcere per associazione a scopo di truffa. Per lo stesso reato la Chiesa dovrà pagare 400.000 euro di multa e la sua biblioteca 200.000. Il processo ha preso le mosse dalle denunce presentate da due donne nel 98 e nel 99. Una per essere stata indotta a spendere 20.000 euro per corsi e prodotti, tra cui un elettrometro per misurare l'energia mentale. L'altra per essere stata costretta dal datore di lavoro ad aderire al gruppo per il licenziamento. Scientology ha però scongiurato una temuta chiusura nel paese. Il Tribunale di Parigi ha infatti deciso di non sospendere l'attività dell'associazione per evitare che continuino fuori da ogni quadro legale. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. This is it. Here I stand. I'm the light of the world. Love you grand. Quella che sentite è This Is It, la canzone che dà il titolo al doppio album postumo di Michael Jackson, da oggi nei negozi di tutto il mondo. È dedicato ai suoi tre figli, contiene tre inediti, la poesia Planet Heart e un libretto commemorativo di 36 pagine con foto esclusive delle sue ultime prove allo Staples Center di Los Angeles. È in uscita domani il film documentario sulla vita di Jackson. E l'Iran ha accettato la proposta dell'AIEA sul nucleare, ma non senza qualche distinguo. Nella prima parte di GR24, in primo piano, le dimissioni in arrivo, ormai si dice, di Marrazzo, che in queste ore si trova in un istituto religioso. E poi ancora il blitz antievasione della Guardia di Finanza nel mirino, gli istituti finanziari in Italia in qualche modo legati alla Svizzera. In questa seconda parte invece ripartiamo dalla pagina degli esteri e dal sì dell'Iran, non senza qualche distinguo, alla proposta sul nucleare avanzata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'Iran accetta la bozza di accordo presentata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dopo i negoziati con Russia, Stati Uniti e Francia, ma vuole delle modifiche importanti. La proposta presentata a Teheran prevede il trasferimento all'estero di parte del suo uranio per ottenere combustibile. L'annuncio, dato dalla TV di Stato della Repubblica Islamica, coincide con l'arrivo del primo ministro turco Recep Tayyip Erdogan, giunto stamani a Teheran. La circostanza è sottolineata dai media arabi, che parlano di un ruolo di mediatori che gli ayatollah di Teheran vorrebbero assegnare al premier turco. Secondo fonti iraniane citate da Al Jazeera, Erdogan potrebbe essere l'attore di un messaggio del regime iraniano al presidente americano Barack Obama. Proprio due giorni fa Erdogan ha accusato l'Occidente di essere scorretto nei confronti del programma nucleare iraniano. Hadif Atahali, GR24, Il Sole 24 Ore. Immigrazione, 8 persone sarebbero morte su una barca affondata al largo dell'isola greca di Lesbo, nel mare Egeo, fra loro anche dei bambini. Hanno toccato invece terra nella notte 299 immigrati che per 3 giorni sono stati in balia del mare su un barcone al largo della Sicilia. Un'ora per 3 giorni e 3 notti vissuti in balia del mare grosso. Tanto è bastato alla guardia costiera per puntare in salvo i 299 immigrati stipati su un barcone partito dalle coste libiche e arenatosi venerdì al largo di Ragusa. Un'operazione resa possibile dal miglioramento delle condizioni del mare nel canale di Sicilia e dal dispiegamento di forze partito dal porto di Pozzallo, motovedette, un pattugliatore, pescherecci d'altura. In questi giorni intanto a nutrire gli immigrati sono stati gli uomini della petroliera Lantignano, dirottata giorni fa dai soccorsi. Vittorio Alessandro, del comando generale della Capitaneria di Porto. Il barcone si è trovato in acque italiane e ha assunto a quel punto l'operazione la caratteristica del soccorso a tutti gli effetti, anche se il barcone aveva ancora le condizioni per poter navigare. I nostri dati sui 299 occupanti della barca sono di 46 donne, 4 delle quali incinte, 29 bambini. E purtroppo questa persona trovata priva di vita, arrivati a terra, sono stati, le loro condizioni di salute sono state tutte verificate. Adesso naturalmente gli organi sanitari competenti stanno facendo tutte le necessarie verifiche. Giovanna Boglietti, GR24, Il Sole 24 Ore. Qualche notizia d'agenzia: dalle prime analisi ambientali è emerso che fino alla profondità di 300 metri non si rilevano alterazioni della radioattività, lo ha detto il ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo in merito al relitto trovato al largo di Cetraro in provincia di Cosenza e battezzato la nave dei veleni, di cui abbiamo parlato molto qui su Radio 24. Questa invece è una notizia politica, sono le parole di Rutelli: davanti a noi abbiamo un tragitto differente unendo persone diverse fra loro. Così ha detto Francesco Rutelli, che ha annunciato l'inizio dunque di un percorso separato rispetto a quello del Partito Democratico. Lo ha fatto questa mattina a Milano alla presentazione del suo libro La Svolta. Ed ora invece a Cape Canaveral parliamo di spazio, perché è previsto proprio in questi minuti il volo d'esordio del razzo che dovrebbe sostituire lo Space Shuttle. Dunque previsto in questi minuti. Gigi Donelli, c'è stato il lancio, no? No, non c'è stato e non ci sarà ancora per qualche minuto, perché un istante fa hanno annunciato che il lancio adesso è fissato alle 14:29, una cosa abbastanza normale nei lanci e in particolare in quelli così delicati. Ogni minuto è importante, evidentemente gli ingegneri della NASA se ne sono presi alcuni in più per fare ulteriori verifiche. Perché è così importante questo momento? Beh, importante perché Ares 1 è la nuova generazione, tutti più o meno ricordiamo Apollo, poi lo shuttle. Bene, Ares 1 è la prima parte della nuova sistema di lancio che in teoria tra una dozzina, quindicina d'anni potrebbe portarci non solo di nuovo sulla Luna, ma soprattutto finalmente su Marte. Grazie a Gigi Donelli. Sarà forse anche un po' a causa della crisi economica, ma la febbre del gioco è sempre più diffusa fra gli italiani, tanto che parte un'iniziativa per correre ai ripari. Ce ne parla Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno. Dalle 14 di domani saranno attivi il sito internet www.giocoresponsabile.it e il numero verde 800-921-121 per dare assistenza a chi ha problemi connessi al gioco eccessivo e ai familiari di queste persone. Si tratta di equipe di psichiatri, psicologi, psicoterapeuti e avvocati a disposizione fino alle 2 di notte. Il progetto è promosso dalla Federazione Italiana dei Servizi alle Dipendenze, dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e anche dal gruppo Lottomatica. Questo perché in Italia il gioco è un costume in crescita, supera infatti i 34 milioni di euro. La raccolta di denaro giocato nei dispositivi illegali da gennaio ad agosto 2009, e perciò la pratica va sempre regolamentata, come ha sottolineato poco fa il sottosegretario Carlo Giovanardi. In Italia, lo ricordiamo, i giocatori sono per lo più uomini fra i 25 e i 40 anni, preferiscono le slot machine e sono solo 5.000 quelli in trattamento per dipendenza. Il progetto dunque, che coinvolge realtà territoriali come i CERT, è finalizzato a prevenire tutti quei comportamenti a rischio perché il gioco resti una passione e non diventi un problema. E da Roma è tutto. Grazie mille a Maria Chiara Grandis. Partenza più che buona per la 10ª edizione del Grande Fratello. Il reality di Canale 5 ieri sera è stato visto da oltre 6 milioni di spettatori, pari al 30,87% di share. I media hanno detto che quest'anno al Grande Fratello sarebbe entrata una donna diventata uomo. Allora, a questo punto, visto il clamore suscitato, io sono in grado di darvi una notizia ufficiale, è vero, però rispettando la sua volontà comunque il Grande Fratello non rivelerà la sua storia agli altri concorrenti, perché abbiamo fatto un patto con questa persona, con questo concorrente, e abbiamo deciso che lo potrà dire solo lui, quando vorrà. Ecco, chi come me non l'ha visto ieri sera ha potuto gustare almeno un frammento. Marta Cagnola qui in studio con me. Allora, tu invece l'hai visto? Io l'ho visto anche per lavoro. Dicevi questa mattina nella controcopertina il reality della crisi, il reality delle parolacce. Insomma, raccontaci un po' com'è andata. Beh, intanto questo aspetto della crisi è singolare e mi è parso molto interessante. Più di un concorrente ha detto: sono disoccupato oppure ho appena perso il lavoro, c'è uno steward che è in cassa integrazione, c'è una ragazza che voleva fare lo spettacolo e invece lavora in un ufficio e dice: sono fortunatissima ad avere un posto di lavoro. Quindi insomma, in un certo senso il Grande Fratello cerca di cavalcare la crisi, cercando appunto di mettere in scena dei personaggi, perché poi in specchio realtà quello tempi, sono dunque. Esatto, specchio un po' uno specchio dei tempi. E specchio dei tempi anche forse un po' nella volgarità? Quello è un po' inevitabile, la spruzzatina di trash ci deve essere per forza. Parolacce sì, perché quando i ragazzi entrano nella casa evidentemente si sentono assolutamente fuori controllo e cominciano con le parolacce di rito. C'è stato anche di peggio, quindi diciamo che nella prima puntata ci siamo limitati a qualche piccola volgarità. Il trash anche nei momenti sexy, c'è una concorrente che ricalca un po' la Belén Rodríguez che tanto piace ai signori, quella procace sudamericana. Poi c'è stata ancora la maggiorata dell'anno scorso. Insomma, il trash non deve mancare, non può mancare nel Grande Fratello, però insomma abbiamo visto c'è che gli ascolti alla fine premiano comunque anche il trash, evidentemente, perché oltre 6 milioni di spettatori ieri sera. E c'è anche il trans quest'anno, evidentemente il momento, no? Sicuramente per caso, perché la notizia si era sparsa ben prima degli scandali politici di questi giorni. Però ecco, come abbiamo sentito dal frammento di Alessia Marcuzzi, hanno cercato di creare della suspense, un meccanismo abbastanza consolidato. C'è, forse già entrato, forse non si sa, lo sapremo nella prossima puntata. Hanno cercato con un piccolo dibattito qualche istante dopo di spiegare anche che avrà un'utilità sociale il fatto di mettere in scena un personaggio del genere. Io continuo a dire personaggio perché si sa che insomma gli interventi degli autori sono massicci nel Grande Fratello, e quindi insomma ammantato anche di un tentativo di sensibilizzazione sociale, questo giochino del scopri il trans, detta certo. Così insomma sembra un po' triste, però in realtà sì, è un po' così. Marta, intanto la Rai resta a guardare, perché insomma 6 milioni di spettatori. Allora, 6 milioni di spettatori per il Grande Fratello. La Rai aveva messo una fiction, si è fermata al 16%, quindi circa la metà del Grande Fratello, perché cosa è successo? In questi mesi i varietà sono andati tutti molto male per Rai 1, hanno tentato di sostituire tutti i varietà con le fiction che c'erano in magazzino. Adesso il magazzino delle fiction sta finendo, il prossimo tentativo sarà quello di Gianni Morandi. L'8 novembre vedremo se riesce a risuscitare il varietà della Rai. Staremo dunque a vedere. Grazie a Marta Cagnola. In chiusura invece lo sport: l'attaccante della Juventus e della Nazionale Vincenzo Iaquinta è stato operato questa mattina al ginocchio sinistro, è solo l'ultimo di una lunga serie di infortuni che sta interessando il nostro calcio. L'intervento di Iaquinta è andato bene, tra 40 giorni lo rivedremo in campo. Nel club del menisco di casa Juve ci sono anche Marchisio, fermo ancora per un paio di settimane, e Buffon, che dovrà operarsi a Natale, un'epidemia inspiegabile. A loro vanno aggiunti anche i lungodegenti Del Piero e Salihamidžić, che fanno somigliare lo spogliatoio bianco-nero a un reparto di ortopedia. Arrivano i primi freddi e come ogni anno gli infortuni si contano a decine. Di queste ore anche altri due stop di lusso. Totti, operato ieri di menisco, sarà fuori 20 giorni. L'interista Snyder, pezzo pregiato, per uno stiramento salterà la sfida di Champions con la Dinamo Kiev. Tutto normale? Il medico della nazionale, professor Enrico Castellacci, non si stupisce. Voi sapete quanto si gioca, specialmente le grandi società hanno spesso 2-3 partite a settimana, e la pericolosità di giocare la sera su terreni ghiacciati. E quindi l'unica cosa che mi lascia un attimino perplesso è il fatto che si sia anticipata, ecco, tra virgolette, la stagione degli infortuni. Urge trovare una soluzione. Castellacci propone un tavolo con Lega e Federcalcio per alleggerire i calendari e non solo. Penso anche nel futuro che si possa pensare a dei turnover obbligatori, che si possa pensare a non giocare quando i terreni non sono adatti, a fare preparazioni più lunghe, più accurate, senza pensare a esigenze di budget, eccetera. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Filippa Oreggi. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.